va ora in onda Piazza Alta, un programma di e con Marzi e Enzino, alla conduzione tecnica Simone. One, one, one. Piazza Alta con il fischio. Perché faccio 36 prove e va tutto bene. Scarichi le pile. Dopo ti alziamo, intanto faccio anche comunicazione. Benvenuti alla puntata del 5 marzo, numero 15 della seconda edizione, però. 5 marzo 2015, 15. Piazza Alta. come vi avevamo annunciato, e come avete visto, cari radioascoltatori, tenetevi forte, perché stasera noi per la serie facciamo radio verità. Radio verità sicuramente, ma proprio senza rete, una puntata che mai nessuno aveva mai pensato di mettere in piedi, e non sappiamo bene se ci resterà. Allora andiamo col primo brano? Ma perché no? Rimanete qua, i presidenti sono già a sedere. Simpatici amici, e stiamo per iniziare. Vai. Questa era per iniziare con calma, per capire quale sarà il clima che ci aspetta, caro mio Marzio. Questi erano. C'ho l'ernia di Natale che mi si sta. Non parliamo di ernia, grazie. Beastie Boys con Sabotage, l'album del 94. No, Tullage, pure nel 2004 è stata inserita nella lista delle 500 migliori canzoni di rock di sempre dalla rivista Rolling Stone. È giusto, ha cessato di esistere anche questa rivista. Esatto. Ma. Come ormai tutto il paese sa, perché abbiamo in questi giorni inondato Facebook in ogni dove. Stasera è una puntata straordinaria. Bravo, come noi. Stasera ci siamo, ci siete anche voi che ascoltate, e non è detto che il prossimo anno ci sarà. No, ma anche domani pomeriggio. Ma perché è importante la serata di questa sera? Te lo posso dire io? Ma prego. Se preparo prima tutta l'apparecchiatura di questa farsa che tutti i giovedì andiamo a fare, ma non abbiamo detto un sacco di cose, però. Esatto. Bravo, dillo. Infatti, prima di tutto volevo dire come i nostri radioascoltatori ci possono udire, ascoltare e apprezzare su in modo tradizionale sulle 101.2 di Radio F, sulle in modulazione di frequenza, poi attraverso Facebook, sul nostro profilo, pagina Facebook, bravo, esatto, in streaming, scaricando la app Radio F, su Radio F, www.radiof.it. Ma le so a memoria, ormai. Sì. E poi per chi volesse anche come dire, vederci, far beneficiare la vista delle nostre immagini di stasera, anche il canale YouTube Piazza Alta. Esatto, bravo. Ora posso parlare io? Espletate le formalità, a te. Allora, come dicevamo, l'argomento della serata, questa sarà una trasmissione storica, se non altro perché mai, almeno a memoria, e poi qui ci diranno anche gli ospiti. Poi tra l'altro io provo un po', devo andare via, non no, so c'è perché. Stata, ora ti dirò, perché okay. Ho fatto una ricerca storica nel 1976, c'è stato un evento simile, ma no, stasera abbiamo in studio... i quattro presidenti dei cantieri che commenteranno il verdetto del carnevale di domenica scorsa. Attenzione, attenzione! I presidenti dei cantieri del carnevale, Al Secolo, Ascanio, Enzo, Giorgio Pasquale, da un'idea di Reggio Condo, un'icona dei nostri tempi, quattro uomini soli al comando, quattro volti espressione del loro popolo, dopo i quattro dell'Ave Maria, i quattro dell'Oca Selvaggia, i fantastici quattro, quattro capipopolo delle tribù del carnevale. Ogni anno i contendenti della singolar tenzone carnascialesca, della sfida all'Hockey Corral della carta pesta, ideano, studiano, impastano, condividono, indirizzano, bleffano, proclamano, esultano, consolano ogni anno al carnevale di Foiano, questa sera a Piazza Alta. Back up. Condivido con Simone la scelta di questa canzone, che serve innanzitutto a calmare un po' gli animi, perché certo, a stemperare, si preannunciano io momenti esaltanti. Anche dividerlo. Questi erano gli Aquilo, caro il mio Marzi, con You There, è un LP del 2014. Oh, il titolo di questo album era Human. Dopo la tisana al finocchio, forse è la cosa che mi rasserena di più. Bene, io ora ti lascio i titoli delle canzoni, caro mio Marzi, certo. Perché io purtroppo. Stasera hai un impegno istituzionale. Ho un impegno istituzionale. E io, quindi, guarda, lasciandoti a te la parola, ti chiedo di presentare gli ospiti, tutti e quattro, che si sono presentati questa sera. Ma guarda, Enzo, come fossi su un terrazzone, io svolgerò. Cercherò il terrazzone ti ci butta di sotto. Cercherò di svolgere questo compito nel miglior modo possibile. Scusa, senti. Ecco, la base musicale non è per niente, diciamo, attinente alla serata. Come no? Vado con piacere a presentare il presidente del cantiere Nottamboli, Pasquale Biagiotti. Ciao Pasquale. Ciao, ciao. Benvenuto. Poi abbiamo Ascanio Ferraro, presidente in carica del cantiere Azzurri. Buonasera. Ciao a tutti. Buonasera, benvenuto. Abbiamo poi Giorgio Gervasi. Ciao, buonasera a tutti. Presidente del cantiere Rustici. Sì, anche se non lo dicevi lo sanno. Benvenuto. E poi ora non so se il presidente del cantiere Bombolo lo invito. Sì, sono arrivato. Ecco, sono arrivato. Se sei in ansia, è un microfono, non sei avvezzo a parlare, però benvenuto a Enzo Ferrari. Buonasera, bella trasmissione. Bene, vuote popolari anche questa settimana. Allora, benvenuti. Abbiamo appena detto che è una serata straordinaria. E io volevo iniziare subito un primo mezzo tono, Bob. Grazie. Sì, ma abbassi la base. Volevo cominciare un primo giro di tavolo chiedendo brevemente. Se mi posso permettere, sì. Da presidente, mi sembra più una tribuna politica. Sì, ma siamo. Ci siamo. No, ma poi ora vediamo insomma come va la serata. Sì. Però contenti. No? Allora, nonostante tutto, contento. Ecco, se mi permettete, vorrei dare l'onore, diciamo, non al contrario, l'onore delle armi al presidente dei Rustici, che come tutti ben sappiamo è risultato, non so, per la classifica avulsa, vincitore di questa edizione numero 476esimo del Carnevale di Foiano. E vorrei chiedergli innanzitutto fargli complimenti e avere un primo commento breve su questa vittoria. Prego. Giorgio. Perché breve? No, perché so che te potresti, diciamo, dissertare. Grazie, abbiamo vinto. Ok. A questo punto direi però di passare a chi non ha avuto sorte così fausta e che salutiamo. Ascanio, se tu, il tuo cantiere è arrivato secondo, come è andata? Ecco, un breve commento anche da parte tua. Allora, innanzitutto abbiamo vinto la mascherata, e è la seconda volta che capita al cantiere Azzurri. Ecco, siamo arrivati secondi dopo due anni che abbiamo vinto. Diciamo che ci stiamo mantenendo su livelli alti e punteremo per il futuro a rivincere più e più volte. Bene, ok. A questo punto passerei al terzo classificato. Vado per ordine, che è risultato dalla classifica dei giurati, il cantiere De Bombolo. Sì. Buonasera. Vuoi darci una impressione brevissima su questa edizione del Carnevale? Sì, approfondiremo meglio anche questo verdetto. Ovviamente questa è l'occasione giusta. Come i più attenti avranno già visto dalle varie relazioni rilasciate dai giurati, anche quest'anno ci sono stati un paio di sviste da parte dei giurati, per cui saremmo risultati secondi. Ma siccome del secondo posto non mi interessa assolutamente niente, certo. Vabbè, dico che quest'anno è andata così, ma l'anno prossimo andrà meglio. Ok, allora, in ordine proprio di apparizione sulla classifica, faccio la stessa domanda a Pasquale Biagiotti, presidente dei Nottamboli. Un breve commento su questa annata, Pasquale. Grazie, abbiamo perso tutto. Ecco, peggio di così non poteva andare, quindi non possiamo che migliorare. Bene, su questa base direi che questo è il presidente dei Rustici. A questo punto direi si può posso lasciarvi libero, o volete un intermezzo musicale per non lo so, per riprendere un po' le idee. Ma io direi che partiamo dal presidente dei Rustici. Fai te, sì. Ecco, allora Giorgio, partiamo un pochino con le cose. Da quanti anni siete presidenti? Tu da quanti anni sei presidente del cantiere dei Rustici? Dal 2000. Dal 2000. 15 anni. E chiaramente volevi chiedere quante volte ho vinto in 15 anni. Ecco, no, ti volevo dire in maniera più soft. No, te lo dico io, 8. hai dato un'impronta importante. No, non te lo volevo dire, ma me l'hai chiesto. No, visto che me l'hai detto, io sono ben contento che tu me l'abbia detto. Praticamente oltre il 50%. Quindi ha un buon tabellino. Potevo fare meglio. Ecco, ci sono state delle annate non positive. Sì, che dovevamo vincere, non so perché. Avete chiaramente... Io puntavo al 70%, vabbè, ma contenterò il 55%. Senti, ma avete fatto chiaramente anche ricorso al TAR, alle... No, noi, quello lo fa a Bombolo, quello lo fa a Bombolo. No, allora... Una volta ci ha provato. Scusate, e io gli avevo dato anche una mano, ma non ci sono riusciti neanche in quel modo. No, lui si riferisce al 2011, anno in cui non sarebbero usciti se non mi riferivo all'anno al 2001 che avevi vinto, sì, e l'avete data in ottavoli. Era un assist per te questo, ma non c'era, con tutto avrei fatto lo stesso, ma non ero presidente, ma eri di bomba. Non so se traspare questa voglia di essere dei signori dei cavalieri, che voglio vedere fino a che ore potrà arrivare. Se posso dire una cosa, e ma poi siamo, se vuoi non parlo più, sei qui più per questo. Allora, quello che a me non piace di questo carnevale sono le statistiche, perché leggi gli articoli che dicono Rustici stravincono con 10 punti di vantaggio, 24, che se uno fa i conti è impossibile matematicamente che venga 24. Esatto. Cioè comunque 24 e gli altri 14, 10 punti di scarto, quindi, e poi 22 primi posti. Invece sono 24 i primi posti e sono 22 punti. A questo, e cerco di essere veloce, aggiungo una cosa che a me sembra fondamentale e importante come foianese, come amante del carnevale e come facente parte dell'associazione carnevale. Ancora si va scrivendo in tutti i giornali, oppure addirittura in testate televisive, che ci sono dei premi che alcuni cantieri hanno preso, quindi la classifica è la seguente: primi Rustici, poi seguono Bombolo e Azzurri, Nottamboli. Sono tutte falsità. Ci sono solo i Rustici. L'unica cosa vera è quella nostra e quella dei Nottamboli. No, devo dire la verità, perché io le verità le dico sempre. Chi è di Foiano sa che nel 1969 il carnevale si è fermato. Va bene, fino al 1985, o meglio, si è fermato come cantieri, e venivano dati i cantieri a tutte le organizzazioni, vuoi il motoclub, vuoi il Lumacons Group, perché c'ero anch'io, lo so, e vuoi altre associazioni. Dopo gli veniva assegnato un cantiere. Ecco, nella classifica dei cantieri è venuto fuori, e non solo di Bombolo ma anche degli Azzurri, è venuto fuori che sono stati assegnati quei premi che non hanno nessun valore. Ah, quindi scusa, la classifica vera, qual è te la dico secondo io te la, no, la non la mia vera, quella vera reale dei cantieri parlo. Sì. È 9 vittorie degli Azzurri, anzi scusa, 8 degli Azzurri, 9 di Bombolo, 10 dei Nottamboli e 24 dei Rustici. Ma io non allora, capisco a questo punto, scusate, a questo punto devo intervenire, questa è la verità, in verità ma io non capisco, se i Rustici ce l'hanno 24, ma che gliene frega se quell'altro ce l'hanno 12, 11. È per amore della realtà, della verità, per amore del della carnevale verità. Perché quando te guardi i Nottamboli sono sempre gli ultimi nelle classifiche, invece siete avanti. Voi siete avanti a loro, allora, due. Per allora, amore della storia del carnevale. Se mi permettete, volevo, come per vedete, stasera la serata scorre velocemente. Allora, prima rispondo a Ascanio. Dunque, da quanto tempo, da quanti anni sei presidente del cantiere Azzurri? Dal carnevale 2008. E in questo periodo sei risultato anche vincitore per negli caso? Negli ultimi 3 anni ho vinto 2 edizioni con il carro, e quest'anno ho vinto quello della mascherata. Va bene, ok. Che gli ultimi 3 anni volevi aggiungere qualcosa? Io ne avevo vinte anche 8 di mascherata, scusa, me ne ero dimenticato. Ora, no, aspetta, secondo la questura Bombolo nessuna, che sia chiaro. No, volevo fare soltanto una precisazione storica, che negli anni in cui diceva che Giorgio diceva che i cantieri non esistevano, l'unico cantiere che è sempre esistito sono gli Azzurri, che le vittorie degli Azzurri vanno ad albo anche quelle degli anni 70, dove Rustici si era ritirato per manifesta inferiorità dell'epoca. Meno male, se no chissà quanto la manifesta vinto. Inferiorità dell'epoca porta a questa conoscenza. Negli ultimi 4 anni, prima di chiudere, i russi ci hanno vinto 3 volte. Un anno ha vinto in ottamboli, 1967, perché i russi non hanno partecipato e hanno dato tutte le figure in ottamboli e hanno vinto loro per la prima volta. Questa è storia. Questa è storia. Quindi i rustamboli hanno iniziato nel 67. Se vai a cercare il tuo carro del 1967, ci sono io che faccio i movimenti nel carro dei nottamboli, perché non solo le figure ma anche tutta la mascherata gli è stata prestata. Quindi io quando, quindi i rustamboli, quando ho coniato i rustamboli, in realtà ero in ritardo del 67. Chiedo scusa. Allora Pasquale è presidente dei nottamboli. Da quanto tempo è che non ti sei confessato? No, da quanti anni sei presidente dei nottamboli? Perché tanto questa è la domanda da cui poi si parte. In questo tempo che cosa hai fatto? Esatto. Va bene, io sono 7 anni che sono presidente dei nottamboli. Abbiamo partecipato sempre, qualche volta bene, una volta benissimo, perché abbiamo quella vittoria fantastica di 5 primi posti. Unica, quindi carnevale di Foiano. Possibile vincere tutto? No, è possibile, una volta è successo. Abbiamo vinto una volta sola in questi anni, però abbiamo vinto una volta in maniera veramente eccezionale. Il resto si è collezionato parecchi secondi posti, perché questi rustici o di riff o di raff riescono sempre a primeggiare. E ora musica, tanto anche se non parla di ultimo, è uguale. Musica, grazie. No. Sì, io farò una puntata sola sul bombolo, quindi non ci sarà problema. Enzo, benvenuto. Grazie ancora. Sentiti un po' di casa. Da quanti anni sei? Io sono presidente del cantiere dal 2006, quindi ho fatto 10 anni di edizioni. Ho vinto 2 volte con il carro, abbiamo vinto sotto la mia presidenza 2 volte, quindi ho il 20% di media di vittoria, che è molto lontana dal 50%, ma ho 15 anni in meno di Giorgio, quindi magari... Quindi tutto depone a tuo favore. Puoi morire 3 volte. A questo punto no, direi... aspetta, scusa. E negli ultimi 3 anni ho vinto 2 volte la mascherata e una volta sono arrivato secondo, perché abbiamo deciso di non esagerare, perché non vogliamo uccidere anche il carnevale da questo punto di vista. Se ti interrompo veramente, ma avevi detto un'altra cosa, che avevi prestato i vostri vestiti agli azzurri per farli vincere. Ma io aspettavo i prossimi interventi, ti ringrazio Giorgio, perché sulle stoffe c'ho da dirne parecchie, non solo dei vestiti. Siamo qui. A questo punto direi, scusate, buon ascolto dalle F frequenze. I'm E vista la mancanza di Enzo stasera in trasmissione, che manca tocca... tanto, io voglio dirlo, sì, sicuramente, perché mi ascolto sempre, manca. Ok, devo aspetta a me disannunciare il pezzo appena mandato in onda. Erano The Moons and the Paul Weller, dal titolo Something Soon. Devo anche dire, Simone, un po' di storia di questo brano? No, tranquillo. Bene. Ma okay. non hai salutato Simone stasera? Ciao Simone. Ciao Marco. Devo dire che la selezione musicale è sempre un passo sopra. Ma andiamo avanti. Ok. Bene, ci eravamo lasciati poc'anzi parlando con una piccola scaramuccia tra i presidenti dei cantieri, parlando un po' di un argomento che quest'anno va bene. Molto di moda, se posso usare questo termine, e è quello un po' dei materiali. Infatti il Carnevale di Foiano è famosissimo per e si pregia di avere di avere dei maestri che lavorano la cartapesta. Quest'anno c'è stato forse una piccola incomprensione, una polemica, anche se un po' velata, su alcuni materiali che sono stati utilizzati. Più che velata direi telata. Ecco, perché? Chi è che mi può dire qualcosa? Pasquale, mi puoi dire qualcosa su perché c'è stata un'incomprensione? Il regolamento dice qualche cosa? No, il regolamento non dice nulla di preciso, c'è diciamo una tradizione, una storia, una cultura della cartapesta, che poi non è proprio cartapesta quella che noi facciamo, ma insomma la definiamo cartapesta. Prima vi faccio parlare quest'anno, tutti. Quest'anno i rustici, che sono sempre avanti, perché loro sono avanti nei premi, sono avanti, sono sempre meglio, hanno inventato una tecnica nuova, hanno inventato la stoffa pesta, e che è dato un bel risultato, perché hanno vinto con due cenci messi intorno a un Cristo che ballava con le mani, in questo caso hanno avuto un risultato positivo. Per essere quindi politicamente le copieremo. Potremmo anche dire che Giorgio diciamo vi ha dato delle scienciate. Ci ha dato delle scienciate tremende. Ci ha dato delle scienciate almeno noi nottambuli, anche perché con i temi per i quali i nottambuli hanno sempre stati criticati, la morte, le falci, il sangue, eccetera, eccetera, guarda caso i rustici quest'anno hanno sempre detto che loro non l'avrebbero mai fatto, perché loro facevano il carnevale, ci hanno vinto. Però quindi, se mi consentite, io cerco di essere il più imparziale possibile. Effettivamente, ora io non so se il materiale usato fosse regolare, non regolare, regolare, accettabile o meno, però effettivamente quelle movenze che coprivano un po' la peste, che ne addobbavano la testa e la schiena, facevano un bell'effetto. Allora la mia domanda è questa: nella tradizione nostra del Carnevale di Foiano è un elemento, uno strumento, un materiale che può arricchire in senso positivo la manifestazione, oppure si potrebbe pensare a una restrizione, a un qualche cosa, a un'indicazione da prendere per gli anni ma a seguire? Sarebbe da domandare allo scultore dove ha visto la scultura nella stoffa drappeggiata. Quella è tappezziere più che uno scultore, ma insomma. Io dico questo, aspetta, sì, no, perché volevo dire questo. Secondo me il problema, pur riconoscendo tutti i meriti per come l'hanno utilizzata, perché probabilmente meglio di così è impossibile, e non lo dico sarcasticamente, lo dico facendo veramente un pubblico complimento a chi l'ha usata, a chi ci ha messo le mani. Il problema è che si rischia di prendere una deriva che non fa bene al carnevale, perché siamo conosciuti per la cartapesta, che magari è improprio come termine, come diceva Pasquale, perché non è vera e propria cartapesta, comunque è carta di giornale impastata incollata con la colla di farina e acqua, e da sempre sono stati usati dei materiali alternativi, però in percentuali molto piccole, oppure negli snodi dove non è possibile utilizzare la carta. Quindi dico questo, sì. No, anche perché, no, è vero, hai ragione a ridere Giorgio, perché quando gli altri cantieri hanno provato a usare altro, gli amici dei rustici hanno subito minacciato di saldare gli uscioni, come fanno solitamente quando non gli va bene qualcosa. Però quest'anno hanno deciso di utilizzare quello che va bene, possono utilizzarlo. Secondo me domani dovremo ritrovarci e decidere di ridimensionare questo utilizzo. Sì, perché sennò copiate anche questo. No, noi non copiamo niente, non siamo all'altezza di copiare i rustici. Bravo. Grazie, ma perché io ti conosco, quindi te le dico avanti. Però sicuramente siccome sponsorizziamo, vendiamo i giganti di carta pesta, la stoffa lasciamola alle sarte. Aspetto anche l'Azzurri. Sì, mi sembra doveroso. Aspetto anche te, poi rispondi. Gli azzurri sono stati i primi a inserire la stoffa, però hanno avuto sempre il buon senso di ricoprirla di carta pesta, perché quello che metti sotto la carta pesta è sempre un mistero. L'importante è ottenere il risultato con la carta pesta. Ciò quest'anno non è stato fatto da Rustici, nessuno lo vieta, magari apre vie nuove, magari è una via che può aprire a utilizzo ad altri materiali se hanno lo scopo e l'effetto desiderato. Questo poi sarà una discussione che affronteremo nell'opportuna sede. Questo è un mio parere. Scusate, io da esterno, ma vi potrei anche proporre una cosa per risolvere la diatriba. Alcuni carri di carta pesta continuano magari ad essere fatti visionare in altri carnevali tradizionali. Sì. Il carro dei Rustici, no, per pitti immagine, potrebbe essere eccezionale. Ce l'hanno già chiesto. Ecco. Sono un po' al di fuori. Guarda, Sgarbi è venuto ieri sera perché vuol portare il carro dei Rustici all'Expo. Bravo, chi te l'ha detto? L'ha detto Sgarbi ieri sera, mi ha detto: guarda, ma siete dei Rustici? No, gli ho detto: guarda, sono Nottamboli, mi dispiace. Oh, che peccato, il carro Nottamboli. Ma con quel i delfini non ce l'ha portato. Quello del bue ti ha detto. Sì, mi ha detto: quello del bue con corni ce lo posso portare. Allora Giorgio, a questo punto rispondere, perché certo. È evidente, allora, che questo è un argomento. Gli azzurri hanno già risposto da sé, perché hanno detto: siamo stati i primi a metterci queste cose, però ci abbiamo messo della carta sopra, giusto? L'ha detto un attimo fa. Sì, ma in Nottamboli è meglio che non dica niente, perché per decenni facevano una testa e era tutta stoffa, se non peggio. Una volta infatti gli è presa anche fuoco ogni cosa, ma noi no. Comunque, l'Azzurri. Scusa, ma era chi lo faceva, era lo stesso. Chi lo faceva, perché poi mi è passato anche chi lo fa. No, ogni tanto quello lì è ora loro hanno preso quello vostro, prima voi avete preso quello loro. È uno scambio fra voi che non porta grossi risultati. Ma comunque, ci indoviniamo granché. Per Bombole è anche peggio. Eccoci. Perché? Perché proprio loro che vengono a parlare di queste cose, quando nel lontano 1994 dove hanno fatto un carro di vetro retro, solo una parte di una figura principale, che c'erano tutti gli omini pichini presi a Viareggio che sembravano allora che non parliamo di Viareggio perché hai una figura di Viareggio quest'anno te nel carro. Noi si vende a Viareggio, e l'hai usata già per il secondo anno. Noi si vendono a Viareggio, quella figura lì sono due anni che la usi. Sì, noi si quest'anno vendono. Aveva le rughe. Allora, loro, no. Tu te l'hai visto quelle figurine quando gli andava al politico? Allora fecero quel diavolone che faceva. Infatti, da quanto stava male, arrivarono terzi, neanche secondi. Che volevo fare la triplette, cosa che non gli è mai riuscito, no? Anche perché se vinci ogni 7-8 anni è difficile fare la triplette. La prima volta che gli è capitato di vincere due anni a fila, il terzo anno ci hai messo le mani. Ma ora voglio il terzo anno ci hai messo le mani. Dunque, loro che già nel lontano 1994 fecero un carro di vetro resina, vengono a dire a noi che si è messo due stoffe. Ma stiamo aspetta, due stoffe sono due stoffe. 250 metri di quadri di stoffa è un'altra cosa. Stupende. Sì, ma l'ho detto all'inizio. Però, questo è il più bel carro che avete visto al carnevale. Questa da sempre. È una tua opinione, se Dio vuole. È una tua opinione. No, me l'hanno detto anche la giuria quando ci sono andato a mangiare. Chiaramente ci è andato prima, no? Mi sembra ovvio. Se lo sapevo diventavo azionista della Tessil Toscana, però infatti allora. Ora lo sai quanto mi ringrazio un giudice? Madonna, da quando avete vinto voi qui c'è la fila, si vuole quelle stoffe con colori. Allora, io mi fa piacere insomma che ancora ci limitiamo entro i canoni tradizionali della radiofonia. Ma noi fra noi quattro in realtà non andiamo c'è pathos, si sente, ma insomma, cioè io a Scagno qualcosa gli dico ogni tanto. Tra l'altro sembra anche che le battute siano anche organizzate. Cioè, sono argomenti che capisco che nel tempo che vi conoscete come presidenti ve le siete già fatte più volte. C'è una memoria storica. Non è la nostra prima rappresentazione. Bene, direi di andare con un altro brano allora. Sì. Bene. We'll be right back. Ed erano i Led Zeppelin con... Sì, nel 1975, amici. A me piace una radio tradizionale, un po' come, come Maccheroni. Scusa se mi permetto da presidente. La canzone che avete appena ascoltato, non per intero per fortuna, è When the Leaves Break. No, ma guarda, questa qui la descrizione la leggo volentieri, perché hai scritto: ogni altro commento sarebbe superfluo. Quindi direi di rientrare in trasmissione. Sì, se mi permette, bravo conduttore, volevo fare due... Visto che il collega e amico Giorgio appunta molto sui numeri, giustamente, che parlano tutti a suo favore, e quindi infatti ha fatto la premessa che a lui la statistica non piace, e da lì è partito solo con i numeri. Solo con i numeri. Volevo solo, grazie Simone, volevo solo ricordare che magari Antonio i rustici sono bravi intanto, ma magari su una cosa, sui numeri delle partecipazioni, delle mascherate, eccetera, sono stati sempre da sempre dietro a Bombolo, al punto tale che, ditemi un po' in che anno, nel 1991, Bombolo, 1990. Negli anni 90 portava in piazza 200, 250, 300 mascherati. Ovviamente gli altri, soprattutto i rustici, che poi quando si trovano in difficoltà sono molto bravi a puntare i piedi, hanno fatto sì che ci fosse ingiustamente e ingiustificatamente poi accolta un numero massimo di mascherate, che è assurdo. Facciamo uno spettacolo per la gente, per far divertire la gente, e limitiamo le persone. Pensa che il 1991. La Giovanna che faceva la mascherata, siccome avevamo più di 100 ragazzi da non poter far mascherare, li nascondevamo dentro le case. Arrivavano i probiviri, quelli, i sindaci divisori, contavano e poi li facevamo uscire, perché era allucinante non poter far vestire le persone. Mi ricordo bene quel periodo, perché poi da lì c'è se stato fai delle battute ti spezzo le gambe. Allora passiamo alla prossima la prossima domanda. Questa, scusami, presidente. Ah no, c'era da dire anche un'altra cosa. Vabbè, ma ora io sulle quello che diceva giustamente Giorgio, cioè? Sui vestiti degli azzurri, che ricordano vagamente, e qui faccio il diplomatico, una mascherata di Bombolo vincente di un paio d'anni fa. Comunque, forse nel significato, perché era quest'anno era molto più bella. No, su questo non iniziamo. Vai, allora. La Fenice Gallo invece ricordava poco quella dei rustici. Io una domanda che vorrei fare a tutti i cantieristi. Il piccione appeso sì, là che sopra. Vinse però non ci scrissero il Gallo Cedroni. Una domanda che mi interessa e che vorrei fare a tutti i cantieristi è questa qui: siccome voi siete i presidenti del cantiere, quindi rappresentate un po' l'anima e tutto il cantiere, una curiosità che ho è questa: dopo il verdetto c'è chi ha vinto uno e chi ha perso tutti gli altri tre. Allora io vorrei sapere, vorrei che mi descriveste quello che comunque siete stati tutti dei presidenti anche vincitori, quindi avete vissuto tutte le alterne diciamo emozioni. Vorrei sapere, dopo il verdetto finale, come viene vissuto in ciascuno dei vostri cantieri il risultato della competizione. Direi di far partire Giorgio e richiedo un po' di sintesi. Ma sì, no, ma che sintesi? No, immediatamente, in due parole. No. Cioè, per noi è uguale, perché siamo talmente... No, ascolta, è un fatto di routine. Ecco, se è uguale, io c'è neanche più soddisfazione. Devi interpretare i sentimenti dei tuoi cantieristi, Giorgio. Quindi non è uguale. Ma sei vinto, ma sì. Che noia. Non proprio così. Dici, ma insomma, ma perché piccinini quelli che non vincono mai? Ma quando perdete, che è successo? Perché poco. Noi pensiamo agli altri più che a noi. Sì, questo lo confermo. Voi, nonostante vinciate il doppio di noi, pensate solo a noi. Come mai? No, diciamo piccinini, ma quelli, ma io prima a una tua cantierista ho detto, dico, ma quant'anni ha la tua bambina? 6. Dico, ma l'ha mai visto vinci Bombolo? No. Dico, la mia nipotina, dico, una 5, ha vinto 3 volte. E io fossi una mamma, guarda, che veramente amo proprio... mia figlia, gli direi, ma diventa dei rustici per piacere, vuoi soffrire tutta la vita. Guarda, non puoi capire quanto sia bello essere di Bombolo, quindi non te lo comunque, posso nemmeno spiegare. Comunque, scusate, sì, questo probabilmente che ha detto per i karaoke, sì. No, di più. I karaoke veramente li fate voi. Sembra veramente ogni anno. Una carezza amorevole. Noi con i karaoke abbiamo smesso da quando abbiamo iniziato a invitare. Ma mai smesso? C'è uno dei tuoi ragazzi che fa Pavarotti, le fa tutte. Dice, ma le non cantiere. Uno che canta. Ma ha detto, ma le non cantiere, non voglio far nulla. Allora, Ascanio, dai rustici, diciamo, questi sia la vittoria che la sconfitta. Ma forse come dagli azzurri che è meglio. Ma ecco, scusate, sì. Ora sì, non confondiamo il ecco. Famoso con il famoso. Scusa, con il fumoso. Scusa, Ascanio. Allora, dagli azzurri, come viene, per esempio, quest'anno questo secondo posto, come è stato vissuto in cantiere? Quest'anno con delusione e rabbia. Ma per fortuna che è così, perché significa che c'è attaccamento al cantiere e alla manifestazione. È vero quello che dici te, che erano anche terzi, come l'avrebbero vissuto? No, terzi a me quello che scrivono i giurati non interessa, a me quello che conta è solo la scheda, visto che no. Il regolamento dice quello, perché però, se il regolamento diceva altro, ecco, magari rispondetemi si discuteva anche su altre cose. Poi ne ho un'altra che può essere altrettanto interessante. Quindi, Pasquale, invece Nottamboli come reagisce il cantiere? Con le scene dei pesci. No, ma ha reagito bene. Che è comunque una buona reazione. Ha ragione Giorgio, bisogna dargli sempre ragione. Noi venivamo da una splendida cena di pesce dove avevamo bevuto 3 damigiane di vino bianco con il nostro impianto di distribuzione sul tavolo, quindi eravamo belli, tranquilli. Per cui abbiamo preso questo verdetto con la dovuta, non voglio difendere, con la dovuta tranquillità. Però la cosa, ma loro sono consapevoli quando fanno un prodotto scadente, non so come quest'altri, capito? La cosa bella però che io ho trovato quando sono andato in cantiere con le relazioni, non ho trovato facce smorte e compagnia bella, ho trovato invece dei ragazzi che hanno detto: oh, ma da domattina si ricomincia. Quindi questa è la cosa più bella che potevano dire a un presidente, quello che è la cosa più bella che potevano fare per chi vuole veramente bene al cantiere. Quindi abbiamo preso questa batosta con tranquillità, però lo spirito di rivincita è ancora più forte, quindi non potremo che migliorare. Enzo, invece da Bombolo? Allora, da Bombolo, dopo il verdetto, siamo usi fare una cena in cantiere e ogni anno ci sono sempre più persone. Domenica sera eravamo circa 140, non lo so, insomma, la cucina è buona. Sì, la cucina è buona e volevo dire questo, che è importante, no? Ho visto avvicinarsi Giorgio, ho tremato subito, pensavo avesse da dire anche qualcosa sulla scena dell'ultima domenica. No, e volevo dire questo, confermo quello che dice Pasquale, anche da noi lo spirito di ripartenza, forse perché, come direbbe Giorgio, siamo abituati a non vincere troppo, è stato immediato. Cioè, noi già ieri sera abbiamo fatto un direttivo, lunedì prossimo faremo una pseudo-assemblea dove mettiamo giù i punti per ripartire, per cercare di fare meglio, per capire dove abbiamo sbagliato, dove possiamo migliorare. Da lavorare parecchio. E allora io aspetta, no, sì, è che mi fermi ora dopo che ha detto una cosa così. No, perché mi voglio approfondire l'argomento. Probabilmente c'è da lavorare parecchio, ma non solo sul carro, anche in altri settori dove i rustici ci possono insegnare parecchio. Come sempre. Questa non l'ho capita. Ma l'ha capita Giorgio. Ok. No, ho fatto questa domanda anche perché mi sono preso la briga, vista l'importanza della serata, di leggere un po' non solo la scheda, come dice Ascanio, che è la cosa più importante perché ci ha riportato i numeri, ma ho provato anche un po' a interpretare quello che è stato scritto e devo dire che in alcuni giudizi secondo me le parole usate dai giurati sono state anche un po' pesanti, quindi che possono avere magari un impatto emotivo importante nei cantieristi, perché su alcune voci secondo me siete stati proprio stroncati. Ora noi abbiamo preso 4 primi. Su questa cosa non sei stato chiamato in causa, perché loro sono un po' più umani. Da quindi, bravo, ecco. No, volevo sapere appunto quanto incide, oltre al numero, alla classifica di per sé stessa, anche le parole che possono venire usate dopo che, nell'elaborazione, nella preparazione di un carro viene anche dato un contesto, una motivazione, una spiegazione che è approfondita e anche culturalmente elevata. Vabbè, senti, per quanto riguarda Nottamboli, io ho lavorato molto su questi aspetti dei cantieristi, perché quando sono entrato nel cantiere, è inutile negarlo, i miei cantieristi soffrivano i rustici, quindi ogni volta che si faceva qualcosa, ma i rustici, è ma loro. Io ho lavorato molto su questo aspetto e devo dire che i rustici non li soffriamo più, nonostante che vincano. Quindi noi abbiamo esaminato i giudizi dei giurati. Evidentemente quello che abbiamo fatto, sul quale noi credevamo, perché abbiamo fatto una figura che a tutto tondo, con un, che è tutto in aggetto, grande, che secondo noi doveva fare una figura molto bella, in realtà non è piaciuta. E se non è piaciuta c'è poco da fare, ognuno, sono gusti anche quelli dei giurati, perché hanno visto esattamente quello che si è fatto. Per esempio il pittore dice che il Toro è stato cesellato sul fondo nero, e in realtà è così, è stato dato il fondo nero e poi è stato fatto a pennello tutti i peli del Toro. E però non gli è piaciuto, gli piaceva evidentemente delle masse di colore, e noi non avevamo masse di colore. Si poteva trovare un altro pittore che invece gli piaceva più questo tipo di pittura, non ci abbiamo indovinato, ma la giuria è qualcosa che viene dall'esterno e non si sa mai come la può pensare. Certamente qualche volta abbiamo notato che i giurati, forse noi le enfatizziamo troppo, sono anche un pochino presuntuosi. Perché vengono qua, non sanno niente di carnevale, non hanno mai visto niente, non sanno il lavoro che c'è dietro, e tranciano giudizi molto pesanti talvolta. E forse questo qui un pochino va lavorato nel cantiere per questo, perché quando uno ha lavorato una stagione e pensa di aver fatto un ottimo lavoro, quest'anno noi avevamo fatto dei delfini lavorati con lo stucco da carrozziere lisci, figure che non si fanno mai, non c'è stato mezza parola di apprezzamento di questo fatto. No, ma no, vabbè. Quindi, non si sa, quando ci si rimette a giudizio di una giuria che viene da fuori, questi sono i risultati. Talvolta va bene, talvolta non va bene, quindi non bisogna aversela male, perché poi in fondo il carnevale lo vediamo stasera, è anche scherzo, è anche presa di giro, è anche gioco, no? Quindi lo vediamo stasera fra noi. Noi ci becchettiamo spesso, però il carnevale è questo, insomma, no? Io volevo dire anche una cosa, poi sì, dopo parla anche il presidente degli Azzurri. Per esempio, quest'anno a Bombolo il giornalista ha detto che il tema svolto dal cantiere di Bombolo era abusato. Noi abbiamo parlato del Papa che c'è da un anno, quindi se è abusato il Papa, il tema del Papa, di Papa Francesco, il bene e il male, la morte e la vita, che sono qui da un'eternità, forse sono un pochino più abusati. Ma questo è solo per dire che... E poi, scusa Enzo, se non vado errato, chiaramente l'idea e il progetto del cantiere viene messo in lavorazione mesi prima sì. Tra l'altro noi siamo presi anche un bel rischio, perché se lavori su dei temi alti o eterni, chiamali come vuoi, che è ovvio che lì non ti muore nessuno. Io, con tutto il bene che voglio a Papa Francesco, noi avevamo paura che se gli succedeva qualcosa, per noi, oltre al dramma, ma per noi sarebbe stato un problema, quindi ci siamo presi anche questo rischio. Un'altra figura, tanto terzo, quarto, sì, appunto, figura. Poi questa è sempre la voce di Giorgio dei Rustici, lo dico per chi ascolta. Per esempio, nel 2013 il pittore, quando noi abbiamo fatto uno dei migliori carri da quando sono presidente io, e siamo arrivati terzi, il pittore ci ha elogiato, però ha detto che il mare non sempre è del colore del mare. Allora capisci che ti arrendi, cioè fai quello che puoi fare e speri. Se permetti seriamente, non era una polemica, il pittore, no, volevo anzi è per far capire la tua tesi. Il pittore è l'unica figura, a mio avviso, che è sempre una grande incognita. Dipende di che scuola è, dipende che gli passa per il capo, se è un astrattista oppure un figurativo, certo, quello che certo. Io infatti, se non vi dimenticate, era uno di quelli che volevo togliere, eppure l'ho presi tanti di primi premi in pittura, non quest'anno ma in anni passati, tantissimi. E che facciamo, però, in bianco e nero? No, so benissimo che il pittore è un punto interrogativo, nel senso che veramente non è che premia quello più bello, il pittore premia quello che gli piace della sua scuola, che può essere bello per lui, ma per gli altri potrebbe fare schifo. Sì. Ma questo vale anche per la scultura e per la scenografia. No, è già molto diverso. La scultura e la scenografia è già molto diverso. Perché quando un gallo cedrone lo vuoi far diventare un pollo Ascanio. Ma perché l'hai detto, fratello? Ma perché? La scultura piatta. Uno scultore che gli piace una scultura piatta, perché la stoffa più di piatta non può essere. Che però si muove. Si muove. Scusate, fascina. Poi continuiamo. Ti prende sensuale. Giorgio, perdonami. Ascanio. Come panni stesi al tocca vento. A te per la, diciamo, per l'umore in cantiere. No, l'umore in cantiere, ti ho detto, per fortuna che c'è, tra virgolette, rabbia, ma rabbia sportiva, voglia di ripartire e voglia di rifare. Quello che c'è stato il discorso, anche noi ieri sera abbiamo fatto a mente fredda una riunione dove ci siamo chiariti, abbiamo visto i problemi che hanno sollevato i giurati nelle loro relazioni, che poi prendiamo in considerazione per poter valutare e migliorare, e da lì ripartiremo. Ovviamente sappiamo quello che sappiamo fare, lo sappiamo fare molto bene negli ultimi anni, i verdetti ce lo dicono, cercheremo di migliorarlo, è uno stimolo a migliorare, e questo sarà fatto sin da subito, chiarendoci subito le idee. Bene, andiamo con il traffico, grazie Simone. Tutti insieme erano i Chemical Brothers con Galvanize. Erano... E perché me l'hai messi? Te l'ha anche detto che metteva il set, la 7, la 7. Erano i Tears for Fears con Mad World, e inaspettatamente questa sera a Piazzalta. Bene, grazie Simone. Se me lo dici quando ho le cuffie ascolto la canzone, te l'avevo è detto difficile. Prima, te l'avevo detto. Ma quando prima? Guarda che lui stasera è impegnatissimo perché deve dirigere, capito? Buon ascolto. Allora, diciamo che la serata è stata piuttosto interessante e impegnativa, vero? Andrei con l'ultima praticamente domanda che in questo momento mi viene in mente, perché poi dopo ho l'encefalogramma piatto. Anche e ho perché una grande curiosità. Io so che c'è un momento in cui che è tutto per voi, tutto vostro. Sì, noi quattro finalmente a un certo punto. Esatto, dove lì potete dare proprio il sentimento e esprimere al meglio quello che ognuno prova per l'altro, che è il momento diretta, proprio precedente all'apertura delle buste e prima che il verdetto venga proclamato. Ecco, so che su questo questi momenti, che sono anche abbastanza un po' lunghi, diciamo c'è detto di tutto e di più. Leggende, ecco. Dateci qualche informazione. Che succede? Come si vive? Perché in quel momento penso che voi sentiate anche tutta la tensione e il carico del cantiere e le aspettative, le speranze che per tutto l'anno hanno portato a quel momento lì. Pasquale. la prima cosa che si dice quando siamo lì, si dice finalmente soli. Appunto, vedi che si riduce tutto al finalmente soli, perché a pensare male, finalmente soli nel senso che la settimana prima o le settimane antecedenti a questo momento topico, i cantieristi ti assalgono e ti dicono: allora sai niente, ma ti prendono per sotto braccio, ti portano da una parte, ma a me dimmelo, tanto non lo dica a nessuno. C'è tutta questa storia qui. Finalmente si arriva in fondo, anche perché dopo 5 domeniche, insomma, l'impegno è pesante. Quindi, ed indubbiamente è un momento di tensione, insomma, perché si scherza come stasera, si ride, però insomma poi in fondo questa busta che arriva, che viene tagliata e si guarda le buste comincia ad esserci, abbiamo i nostri fogli lì davanti nei quali segniamo i punti e le segniamo qualche volta, anche sbagliamo cose banalissime, insomma, no? E dopo la prima busta si comincia subito a vedere un po' come tira il vento. Alla terza busta quest'anno russi hanno detto: no, ormai si è vinto, e quindi lì ti crolla, perché aspettiamo, ormai c'era poco da aspettare. Però qualche volta invece non è così, qualche volta è l'ultima busta che decide, quindi effettivamente in quei momenti c'è un certo tipo di tensione. Però poi si scioglie un po'. All'ultima busta c'era due cantieri che potevano vincere, e poi è andato in una certa maniera. Per fortuna ho vinto io. Proseguo il discorso. Quindi ne ho rubati già due. Già sì, due. Per ora mi sono limitato a due. La tensione era molto alta, l'emozione era talmente alta che anche a fare 1+1 diventa difficile, dico la verità. E questa è l'emozione di andare a aprire le buste. Ma invece chi è abituato come Bombolo, no, volevo dire come Bombolo. Ma perché pensi? Ma io io volevo chiedere pubblicamente perché i rustici pensano sempre a Bombolo, che avete tre volte tanto i trofei dai numeri che dici te. Considerano una minaccia. Voglio dire la verità. Mi siete nel cuore, ma non... No, ma lascia, io non voglio essere nel cuore a nessuno, e neanche da altre parti, sia chiaro. Hai detto piccinini, no, ma ci impegno un tanto. No, io però volevo dire una cosa che hanno detto anche Pasquale Ascagna. Effettivamente è vero, quando si va a aprire queste buste, che noi facciamo le somme, ogni volta, a parte la prima ovviamente che va da sé perché 5, 3, 2, 1, ogni volta che poi apriamo un'altra busta ci fermiamo, facciamo le somme, vediamo a che punto siamo, perché veramente l'emozione è forte, c'è da ragionarci. E quest'anno, come dicevano prima loro giustamente, c'è stata poca emozione, perché 5-5-5, nel senso russici primi, le prime tre buste, quindi era chiaro che ci voleva, che tristezza, chissà cosa, perché non vincessero rustici. Beh, si poteva, anche se a quel punto matematico non era, poteva essere un ex aequo. Sì, oppure si faceva come negli anni 30-40, non mi ricordo, un presidente dei rustici quando vide la malparata mangiò il 1946. Mangiò il verdetto. Ora noi... Anche di questo. Sì, anche questo è stato visto. Volevo dire un ultimo. Sì, ma hanno raccontato, ma non questo sì, veramente non so anche se io questo, sia una cosa vera. Però la leggenda narra. Merigione. Merigione. Che abbia mangiato una busta. Ora volevo dire un'ultima cosa come presidente di Bombolo, poi dopo ritorno per fare i saluti finali come conduttore, che io avevo detto all'estrazione dei carri, quando ci siamo ritrovati soli con i presidenti, avevo scommesso una pizza con Giorgio che arrivavano quarti. La devo pagare, ecco, questo volevo solamente sottolineare. No, lasciala al cantiere, fai a spicchi. No, lascia guarda, al cantiere a spicchi. Per quello non ci sono problemi, però volentieri. Offerta da me il tuo cantiere. È l'amor del Dio. Siamo partiti con una grande signorilità e cavalleria, finiamo nella stessa maniera, come è giusto che sia. Volete mandare un saluto ai vostri cantieristi e a tutti quelli che amano il carnevale? Bene, forza Nottamboli, forza ragazzi, che un altro anno faremo sicuramente meglio. Io ringrazio tutti i cantieristi e anche tutti quelli che stanno al collaterale, visto che abbiamo fatto 3 cene da sold out, un cantiere molto seguito, abbiamo avvicinato anche gente che della manifestazione lì per lì non gli interessava, però da quando facciamo queste cene che si divertono vengono anche la domenica al carnevale. Bene, Giorgio. Questo non c'entrava niente, ma bisogna che replichi la cena sold out. Abbiamo fatto un pranzo, ma non sei mai stanco, quasi 400 pezzi. Cioè, allora, lasciamo perdere, niente, okay. Voglio solo dire, per noi è difficile, cerchiamo di perdere perché ci sono anche gli altri. Bravo, bravo, fai bene, guarda che ce la puoi fare, secondo me. Comunque Giorgio, scusa, il problema è che ha troppa ragione, sì, capito? Ma sì, ma poi gli va anche data a un certo punto. E invece anch'io come presidente di Bombolo ringrazio tutti, soprattutto i nuovi arrivati, perché quest'anno, oltre ad avere un sacco di ragazzini nuovi, faremo una festa il 21 in cantiere proprio per loro. Prima facciamo festeggiare i rustici. Bravo, scusami, il 7 voi, giusto? No, noi facciamo il 21 la cena sociale presso Villa Magi, no, così ognuno giusto, può fare la sua pubblicità. Presso Villa Magi, sono aperte le iscrizioni della prossima settimana, da lunedì prossimo. Villa Magi il 21 alle ore 20:30. Ma poi avrete sicuramente e sabato, e questo sabato qui, ovviamente, dopodomani ci sarà la festa aperta a tutti, con la solita sfilata classica. Quella che sapete carrino. Fare. No, guarda, veramente, stavolta ti giuro, in termini proprio minimi. O invece una bella pasta asciuttata, ciaccine, salami e prosciutti giù al cantiere. Aperta a tutti e vi invito a tutti. Grazie. E io invece ricordo appunto che il 14, proprio perché quest'anno il grande successo del cantiere è stato avere nuovi arrivati, molti bambini che di conseguenza poi hanno portato anche i genitori a lavorare, e quindi abbiamo deciso, visto che i bambini sono più di 30, 35, non lo so, 40, veramente non lo so, il 14, prima facciamo festeggiare i rustici perché è giusto che sia così, però il 14 facciamo una festa ai nostri bambini in cantiere, e il 21 facciamo anche noi la nostra cena sociale da Domenico. Non so se voi ci avete da pubblicizzare la vostra, se ancora avete deciso. No, noi ancora non abbiamo deciso, ma noi non faremo probabilmente una cena sociale al ristorante, ma faremo una festa in cantiere molto popolare, in maniera da far venire tutti i ragazzi, i giovani e le famiglie intere, perché anche perché un po' li abbiamo spremuti con queste cene, quindi sarà il caso di offrire qualcosa. Invece il Cantiere Azzurri per ora ha deciso solo la data, che è il sabato 21, mentre venerdì 13 farà la cena in cantiere per festeggiare la vittoria della mascherata. Bene. Allora, che poi se ci pensi, te lo dissi anche al momento stesso, te hai vinto più di me perché hai vinto la mascherata secondo il carro. Te invece sei arrivato terzo col carro, con la mascherata. Ha vinto lui, no? Purtroppo non possiamo ascoltare i Chemical Brothers stasera, anche se io l'ho annunciato più volte. Buonanotte, grazie a tutti. Ringrazio tutti i presidenti dei cantieri del Carnevale di Foiano e vi do appuntamento per giovedì prossimo. Quindi io ritorno nel mio ruolo di conduttore. Lorenzo, sì, ciao. È stata una serata interessantissima, bravo. Ringrazio anch'io. Davvero, ringraziamo anche Simone e Paolo alle riprese e tutti i nostri ospiti in studio. L'appuntamento è per giovedì prossimo, ma durante la settimana sia mille, su Facebook, appuntamenti. E su YouTube e via. Anche per la strada, in piazza, tanto ci trovate. Se avete bisogno di qualcosa ci fermate, ve lo diciamo anche a voce. Ce l'abbiamo fatta. Ecco, Giorgio continua perché c'è un'altra ora di programma che la farà solo da sé. Solo qui in studio, ma noi proviamo ad andare con la sigla. Bene. Avete ascoltato Piazza Alta, un programma di e con Marzi e Enzino, alla conduzione tecnica Simone. Une. Alle riprese video Paolo. Aulo. A giovedì prossimo. Ossimo.